Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Odontofobica, così mi aveva definito mio figlio. Solo entrare in uno studio dentistico mi gettava nel panico. Mani ghiacciate, tensione a tutti i muscoli, ansia. Lo sguardo fissava, senza vederli, particolari casuali delle varie sale della sala d'attesa. Mi chiamo Luisa, abito a Rivoli in provincia di Torino, ho 62 anni. Come lavoro ho fatto la traduttrice e la giornalista pubblicista, ho due figli. Ah, era particolari casuali delle varie sale d'attesa, non delle varie sale della sala d'attesa. Però c'è una teoria, Bonini, che dice, che non è mia, che sul ritmo, sul suono passa tutto, no? Senti quelli che parlano in televisione, qualsiasi roba va, dopo un attimo è digerita. Buongiorno a tutti, sono le 16:07, questa è Radio 24 in diretta dagli studi di Milano, dalla sempre più splendente Serra del Sole 24 ore. 349-238-6666 è per metterci in contatto con noi con un sms, altrimenti se avete un computer, un tablet, uno smartphone, abbiamo un profilo Facebook, sempre quello lì, voi siete qui, Radio 24. La paura di Luisa è quella del dentista, però più o meno tutti hanno una piccola o grande paura o fobia direi più che paura, che adesso non saprei dire qual è la differenza tra paura e fobia. Cioè la paura, guarda, ci provo. Usiamo la regola del tono, che se il tono è buono, allora praticamente la paura è una questione profonda e radicata nella coscienza di ognuno di noi. Fobia invece è qualcosa di superficiale ma che tocca comunque le nostre corde. Adesso, Paolino, dimmi che questa non poteva essere la risposta di un qualunque psicologo a pomeriggio 5. Ditemi di no. No. 349-238-6666, chiunque sappia qual è la vera differenza tra paura e fobia, anche uno psicologo che non è in questo momento a pomeriggio 5 ed è all'ascolto. La paura è quella cosa lì, la fobia invece è un'altra cosa. Francesca mi scrive: in stazione, quando vedo la gente che attraversa i binari e non usa il sottopassaggio, mi manca il respiro, mi giro dall'altra parte, anche quando i semafori sono rossi, per cui razionalmente un treno non passerà. Ci sono ancora stazioni dove si attraversano i binari? Forse, ma pure a Trecate, vicino a casa mia, che è minuscola, c'ha due binari ma c'ha il sottopassaggio. Forse lo si fa probabilmente, cioè, di frodo, non facendo il sottopassaggio. Mariana, ebbene sì, non ho paura di niente che della politica di oggi. Come è scritto? Ah, perché Mariana credo che sia straniera. Quindi stavo già facendo la figura di quello che diceva è sbagliata la grammatica, poi sono un cretino perché lei è straniera. E quindi Loredana, ho paura di rane e rospi. Guarda Loredana, poi ti racconto una storia mia più tardi che va vicino alla tua. Lucia, gli esami all'università, immaginando che il professore non sapesse nulla di ciò che mi chiedeva, fingevo di essere io la docente, ovviamente studiando. Ma questo è un metodo straordinario, scusami. Questo è un bel metodo per... avete capito cosa intende Lucia? Cioè, allora, lei aveva paura di dare gli esami dell'università. Allora cosa faceva? Studiava, si preparava... Lucia, correggimi se sbaglio, se l'ascolto. Lei studiava a casa e poi si trovava davanti al professore immaginando di essere lei il docente e lui non sapere nulla. E quindi gli raccontava le cose che sapeva. Questo è un ottimo metodo. Metodi con cui avete vinto le vostre fobie, quali sono e i metodi? 349-238-6666. Lorena, la mia fobia è parlare in pubblico e non l'ho ancora vinta. Stefano invece scrive, scusate, pensa che già solo questa foto mi mette ansia. Ah, perché avevo pubblicato sul profilo la foto di un tizio che è praticamente seduto in pizzo a una lingua di roccia che è a strapiombo su, non si vede quanti metri di altezza. Qualcuno che si firma con un nome che non so, sarà un personaggio misterioso, Crim Larrea, o forse è un come si dice quando sposti le lettere e cambi le parole? Guarda, quando mi guardate così vuol dire che noi non ti possiamo aiutare. Un anagramma, grazie Marghe. Secondo me è un anagramma, sarà tipo è basca. Chi le ha mai vinte le mie paure? Aereo, folla, luoghi chiuse, farfalle e altri insetti volanti. Parlare in pubblico, suonare in pubblico. Vinci su tutti. 349-238-6666. Luisa ha una fobia molto semplice, che suo figlio, che è dentista, ha definito odontofobia. Seduta nella sala d'attesa, sto sfogliando una di quelle riviste che non compro mai e che leggo solo dal parrucchiere. o dal dentista come oggi. La giornata di luglio è caldissima. La poltrona di pelle su cui sono seduta si appiccica alle gambe che spuntano dalla gonna e mi sposto di continuo per trovare un contatto più fresco. A questo appuntamento mi sto preparando mentalmente da 2 settimane. Da 2 settimane faccio i conti con la sequenza che mi attende tra poco dietro quella porta. Estrarre un dente del giudizio è qualcosa che avevo affermato di volere rimandare a dopo l'estate, per allontanare anche il solo pensiero di un'esperienza così cruenta, per esorcizzarla. Potrebbe iniziare a fare molto male, a farlo in modo pesante, c'è una carie molto estesa, aveva però detto il dentista dopo aver visto la radiografia. E questo aveva instillato in me una seconda paura, ancora più grande, il dolore tremendo, lancinante, che per di più mi avrebbe rovinato la vacanza. Il mal di denti so che cos'è, perché comunque già da bambina ho dovuto mettere l'apparecchio correttivo e tra l'altro il dentista da cui andavo da piccola, che si chiamava, guarda caso, Leone, per cui andare dal Leone era già qualcosa che era un po' divertente. Poi nel corso degli anni insomma sono cresciuta ed è cresciuta in me sempre di più la paura dei dentisti, è un vero terrore insomma. La sorte in questo frangente mi riserva un destino veramente bislacco. Dopo aver fatto tanto per allevare un figlio dentista, che per me equivale ad avere l'orco in casa, quando ne ho bisogno lui si trova dall'altra parte dell'oceano. Toglilo quanto prima, si è limitato a dirmi vedendo via internet la radiografia del mio dente. Ecco, le sue parole hanno aperto una voragine, una scossa repentina nel mio stomaco che mi riporta al terrore del passato, quando solo entrare in uno studio dentistico mi gettava nel panico. L'odore dei disinfettanti faceva scattare in me riflessi pavloviani, mani ghiacciate, tensione a tutti i muscoli, ansia. Il mio sguardo, che fissava, senza vederli, particolari casuali delle varie sale d'attesa. Sì, odontofobica, mi aveva definita mio figlio, quando stava per laurearsi. Sì, è vero che c'era stato un episodio a mio favore il giorno in cui per la prima volta mi sono seduta sulla sedia delle torture, però quel medico con i guanti di lattice, le lenti di ingrandimento montate sugli occhiali, la mascherina e l'aria professionale era lui, era mio figlio. Esattamente nel momento in cui mi ero seduta su quella sedia era successo qualcosa. Quello non era più il figlio da proteggere, adesso io ero completamente nelle sue mani. Lui sapeva che io avevo una paura folle, non farmi fare figuracce, s'era premurato di dirmi, e io mi ero sentita in dovere di non deluderlo. Quella volta mi ero comportata bene, una paziente modello. Diciamo che sono cresciuta un po' con lui perché guardavo i suoi manuali, no, su cui studiava, con quelle fotografie tremende, orrende, di bocche sguarciate, però le guardavo con curiosità, insomma, no? Quindi non è che io scappassi o mi ritraessi di fronte a questo, finché non erano mie, insomma, per gli altri andava bene tutto. E poi a un certo punto mi sono ritrovata invece sulla poltrona del dentista, e il dentista era mio figlio. Questa volta però è diverso. Finché si tratta di controllare una radiografia, lo si può fare anche con un oceano in mezzo, ma cavare il dente del giudizio, quello no, non si può fare. Così, non potendo pensarci lui, mi indirizza da un suo collega, un suo amico. E ora sono qui, in questa sala d'attesa, ad aspettare che il mio carnefice apra quella porta. L'attesa finalmente finisce, la porta si apre e tocca a me. Ora scappo, penso. E invece no. Io dichiaro subito la mia paura, ma cerco di non perdere il controllo. Una figuraccia non gliela posso far fare, mi ripeto continuamente. Via con l'anestesia. Giusto così, penso. L'anestesia è la mia ancora di salvezza, giusto così, mi ripeto. Sono talmente consapevole che seguo con gli occhi gli strumenti che la mano del medico inserisce nella mia bocca, seguo le manovre che nei giorni passati mi sono prefigurata e che si svolgono esattamente così, come me le sono immaginate. Tutto scivola via liscio. In una decina di minuti è risolto. Saluto il medico mentre sto già pensando alla partenza per le vacanze, tra pochi giorni. Uscendo dallo studio mi sono sentita un'altra persona, non perché mi manca il dente del giudizio, ma perché sono convinta che sia stata una passeggiata. Si è compiuta in me una rivoluzione profonda in maniera assolutamente spontanea. È andata proprio come doveva andare. È proprio vero, spesso sono i genitori a imparare dai figli. Lightning. Take your rising. chi riesce a controllare le proprie paure e chi non ha delle paure o delle fobie, appunto. Io non ho idea del motivo, ma le paure con le quali dobbiamo fare i conti, le paure più profonde, sono quasi sempre soggettive, sono inspiegabili agli altri. Cioè, lo sappiamo tutti che l'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro, ma vallo a dire a chi ha paura di volare. Vai a dire a uno che soffre di vertigini che tanto c'è la ringhiera se stai sul balcone. Le paure poi sono trasversali. Ci sono contadini che hanno paura dei ragni e marinai che non sanno nuotare. Si racconta che Jim Morrison, uno che di droghe se ne intendeva, resistesse alla tentazione dell'eroina solo perché aveva il panico degli aghi. Io fino all'anno scorso ero convinto di non avere fobie particolari. Poi, a inizio dell'estate, mi capita di passare un fine settimana a casa di amici, all'Argentario, al mare. Quella sera, dopo cena, mentre siamo sul terrazzo, Olmo, il figlio che ha 5 anni dei miei amici, mi dice: «Vieni Matteo», mi porta poco più in basso e si fa strada con una torcia. E poi a un certo punto mi dice: «Guarda». E lì davanti, a poca distanza, dello stesso colore della terra, c'è un rospo grosso così, grasso, rugoso. Se ne sta lì immobile a guardarmi con una faccia che sembra dirmi: «Beh, sono grasso e brutto, e allora?» Io sudo freddo e comincio a camminare da fermo. «È un rospo», mi dice Olmo, che non si accorge della mia danza sul posto. Anzi, lui ora si diverte a provocarlo con una foglia, lo sfiora, lo spinge appena. E il rospo fa dei movimenti strani, si piega, si fa un po' concavo, si sposta più scocciato che spaventato. A me a guardarlo viene la nausea. Poi dalla casa finalmente qualcuno chiama, dice che è arrivato il gelato. Olmo si dimentica completamente del rospo e corriamo verso casa. Mauro, il suo babbo, il mio amico, vedendomi si mette a ridere e mi dice: «Il rospo, vero?» Io impallidisco, siamo quasi fratelli con Mauro, però non immaginavo che mi leggesse proprio nel pensiero. E poi lui mi rammenta una cosa, mi dice: «Non ti ricordi», mi dice, «ti ricordi l'estate delle femmine sporche?» A quel punto mi ricordo anch'io e passiamo la serata a ridere come degli scemi. Vi spiego che cos'è l'estate delle femmine sporche. È l'estate del 1993. Le femmine sporche sono un gruppo di amiche più grandi che hanno una baita su un'alpe in Valsesia. E le chiamiamo le femmine sporche, loro lo sanno, perché quando stanno sull'alpe per settimane prendono dei modi da animale selvatico. La loro baita si raggiunge solo a piedi. Si lascia la macchina a Varallo, in Valsesia, e poi si sale attraverso un sentiero. Il sentiero costeggia un fiume e il fiume è popolato di rospi. Io e Mauro di solito ci saliamo a cena e scendiamo la notte, e la notte su un sentiero di montagna è veramente buia. Io quella sera ero salito con delle assurde infradito. Attraversare un'alpe di notte con l'infradito può essere pericoloso, quindi scendo a piedi nudi. Solo che succede l'inimmaginabile. Mentre scendo e sto chiacchierando e sto ridendo con Mauro, con la torcia in una mano e le ciabatte nell'altra, sento sotto un piede un che di molliccio, di sgusciante. Ho pestato un rospo. Realizzo subito quello che è successo. Sollevo il piede di scatto e lo faccio scendere un po' più avanti, ma lì provo la stessa sensazione. Ne ho pestato un altro. Avete presente i film western, quelli comici, quando il pistolero fa ballare il delinquente sparandogli fra i piedi? Ecco, io comincio a fare lo stesso ballo. Sono talmente disgustato che mi viene una nausea. Sputo per terra, saltello su me stesso. Punto la torcia a terra, cerco un sasso, controllo attorno e salto sul punto illuminato, già cercando di capire dove dovrò mettere l'altro piede. La sensazione di disgusto, fobia, nausea, sudori freddi non mi abbandona nemmeno quando siamo arrivati in macchina. Se mi distraggo sto bene e chiacchiero, ma basta che mi guardi un piede e mi torna su tutto. Ecco, quell'estate, l'estate del 1993, mi ha regalato l'ossessione per i rospi. Di sicuro è meno frequente incontrare un rospo che avere bisogno di un dentista, e io me ne ero addirittura dimenticato. Però, a differenza di Luisa, io non posso dire di aver vinto la mia fobia. Guardo dritto in fondo al bicchiere, ma non mi vedo già più. Sarà come tutte le sere ed alzo gli occhi all'insù. Parlo, guardo, rido e saluto, mi dico che vuoi che sia. Ma tutte queste formiche non se ne vanno più via. Provo con respiro profondo, ti ascolto ma già lo so. C'ho un po' la testa confusa, si scusa, ok, ma però ho fatto clic, clic, clic, clic, clic, ho fatto clic. E in un attimo tutto si è spento. Ho fatto clic, clic, clic, clic, clic, ho fatto clic. Scusi lei, dove va? Non lo so, ma au revoir. Oh, oh, au revoir. Ho paura del formaggio, se lo vedo a tavola mi passa la fame. Se qualcuno lo tocca e poi tenta di toccarmi, scappo. Ciao da Yuri. I topi, Paola, li sogno di notte. I coltelli, Max da Teramo. Esattamente il bagliore della luce sulla lama. Se è troppo lucida, ci metto sopra il tovagliolo. Devo dire, questi sono alcuni dei messaggi che sono arrivati. E veramente siete carichi di fobie, eh? Direi che, come giustamente suggeriva Bonini, forse uno dovrebbe farsi delle domande e darsi delle risposte sul proprio pubblico. Cioè, secondo me, gli ascoltatori di Sinibaldi su Radio 3 non hanno una fobia che sia uno. Loro sono lì a ascoltare musica classica, a leggere Dickens. Qui invece, caro Matteo, mi chiamo Mohammed, sono alto 1,86, peso 135 kg e ho una paura tremenda di api e vespe. Ma si può? Mohammed, direi che si può se tu pesi 135 kg e c'hai paura di una puntura. 349-238-6666. Odontofobia è stata definita la paura di Luisa, l'ha definita proprio il suo figlio. E, però vorrei salutare Luisa con questo messaggio di Andrea che dice: pensa com'è il mondo, caro Matteo. Per me, già la cortesia straordinaria di Andrea. Per me andare dal dentista non è una fobia, bensì un sonnifero, dato che riesco ad addormentarmici spessissimo. Pronto Luisa? Eccomi qua. Ciao, come stai? Ciao Matteo, bene, grazie. Dove sei in questo momento? In questo momento sono a casa. A Rivoli, giusto? A Rivoli, sì. A Rivoli, dove c'è il Castello di Rivoli, la famosa... Il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea e tante cose belle. Che è nel Castello di Rivoli, correggimi, il Museo d'Arte Contemporanea? È nel Castello di Rivoli, certo. Quindi ci sono delle mostre permanenti e delle mostre invece che girano? Delle mostre temporanee, certo. Ci vai spesso? Abbastanza, sì. In genere vedo le mostre che ci sono. Ed è un bel posto Rivoli dove vivere? Un bel posto, poi è panoramico verso la Valle di Susa, c'è una vista meravigliosa. È un po' mezza montagna, appunto, ti stavo chiedendo. Eh sì, certo, l'imbocco della Valle di Susa, sì. E quanti metri è più o meno Rivoli? Oh, sarà 300 metri. In questo momento sarà sui 400 metri. 300-400 metri. Sì, ma abitanti. Guarda, sono domande tecniche. Bravo, stavo per chiederti quanti abitanti aveva. Sono delle domande tecniche che ogni volta che le faccio, mia mamma che mi ascolta mi dice: "Ma cosa, che domande fai? Ma perché, come fa la gente a sapere?" Servono a identificare un luogo. Grazie Luisa, grazie mille. È come se avessi tu risposto a mia mamma. Quanti anni hai Luisa? Più o meno avrai 62, l'età. 62. Ok, quindi credo tu abbia proprio l'età di mia mamma. E hai un figlio dentista? Sì, ho un figlio dentista che si chiama Matteo. Ma attenzione, c'è qualcosa di strano qua sotto. Che differenza c'è tra dentista e odontoiatra? È la stessa cosa, soltanto che la laurea in odontoiatria da una decina d'anni, credo, è una laurea separata da quella di medicina e si chiama appunto in odontoiatria. Tu sei sempre stata spaventata dal dentista oppure questa cosa è nata? Sì. Che però è una paura abbastanza comune, nel senso che è paura del dolore quella del dentista, certo, no? Cioè sì. di provare male forte. Ti ha dato una mano tuo figlio in questo, a parte dicendoti mi raccomando non farmi fare brutte figure? La mano me l'ha data proprio nel senso di questa situazione che si è venuta a creare, per cui io ho dovuto mettere proprio in discussione il mio ruolo, no? Io a un certo punto ho dovuto non farci una brutta figura, insomma essere un po' ancora la mamma che non può perdere la faccia di fronte al figlio. E nello stesso tempo ho dovuto affidarmi completamente a lui, quindi fidarmi come se il ruolo fosse invertito, e cioè io fossi la persona che ha bisogno di aiuto, la persona in quel momento dipendente, mentre lui è quello che decide e che ha tutta la situazione sotto controllo. Quanti anni ha lui? E lui ne ha 27. E dov'era quando c'era bisogno di lui? Era ed è tuttora negli Stati Uniti, a New York. Ah, perché vive là? Perché lui vive là, sì. E fa il dentista a New York? Due anni, sì. Ma perché c'è più lavoro? Perché si guadagna meglio? No, perché è all'università, ha una fellowship all'università e quindi di New York e quindi fa questa esperienza lì in chirurgia orale. Ah, quindi però già sta lavorando praticamente? Ah, sì, certo, anche in Italia. In un ospedale quindi a New York? Sì, alla New York University. Lo vai a trovare? Sono già andata. Lo immagino, sì. era come dire ci vai ogni tanto a trovarlo, quindi ogni tanto sì. Tu che cosa fai o che cosa facevi Luisa? Allora, io sono giornalista pubblicista e sono freelance, in questo momento molto free e poco lance, nel senso che in questo momento non sto lavorando, ma insomma... Di cosa ti occupi più o meno? Di cronaca? Cronaca, inchieste, Dimmi l'ultima inchiesta che hai fatto, poi ti saluto. L'ultima inchiesta che ho fatto risale a qualche anno fa, comunque ne ho fatte sul mondo del lavoro, su problemi sociali ad ampio spettro. Hai fatto qualcosa sulla Val di Susa, immagino che lì vicino... Anche io ho lavorato con un giornale della Valle di Susa, certo. Ok, senti Luisa, hai altri denti da mettere a posto a breve? Spero di no. Spero proprio di no. Benissimo, io però ti ringrazio per la chiacchierata e per il racconto. Grazie a te. Ciao Luisa, grazie mille, buona giornata. Ciao. È arrivato un messaggio di Nicola, che è anche un po' per Luisa, che dice: anche la mia prima dentista si chiamava Leone, sono scappato dalla sedia e lei mi è corsa dietro. Avevo 8 anni, oggi ne ho 41. Voi siete qui. È molto sorridente Luisa nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Ha però su degli occhiali più da prof che da giornalista, quelli con la montatura solo sopra e invece liberi sotto. Non so perché, però mi sembra un po' da prof. E come mia mamma, oltre all'età e al sorriso, ha anche i capelli corti. È probabile che ci sia qualcosa di strano in questa storia. Fobia, sostantivo femminile. Paura angosciosa, per lo più immotivata e quindi a carattere patologico. Comune, avversione istintiva e invincibile per qualcosa. Etimo, dal francese phobie. Data 1899. Questo pezzo è tutto dedicato a Gianluca D'Asti. Gianluca, lo so che è una bastardata, guarda, lo so, però se tu mi mandi un messaggio che ho scritto "ho il terrore per la sigla della Pantera Rosa", non possiamo far altro che metterla. Più che altro per capire che cosa ti provoca. In questo momento sono le 16:36, ti prego manda un sms e dimmi cosa sta accadendo, dove sei, in auto, hai accostato, stai sudando freddo, stai chiamando qualcuno. Ti prego, cosa vuol dire che hai il terrore per la sigla della Pantera Rosa? Guarda, veramente, devo chiudere alle 16:43 e ho ancora 8 minuti, però Gianluca, fatti vivo. Quanto prima, 349-238-6666. Io ho il terrore del buco della vasca da bagno, perché è nero, sporco, ci può uscire di tutto, a mio parere. Beh, certo, a tuo parere, non a parere di chiunque. A mio parere ci può uscire di tutto e tu sei nudo e indifeso, Arianna. E poi ancora fobia di nuotare nell'acqua troppo alta, perché non so cosa c'è sotto. Questo, a questo proposito, adesso vi leggo una storia. E ancora, ce ne sono un paio di questi messaggi. Acqua, la massa d'acqua, dighe, tunnel sotto tunnel sotto fiumi, mari, zoo, acquari sommergibili. Dai, tuffati, vieni giù, vieni in acqua, dai. Guarda che ti porta l'acqua alta, ti porta l'acqua alta! Guarda! No! Porti l'acqua alta! No! Vieni giù! Guarda, perché ancora il tempo a cambiare, voglio fare un altro sport! L'hai capito? Ti porti l'acqua alta! No, ma sono sbagliato! Vieni giù! No! Ci ho ripensato! Mamma, ma c'è ancora il tempo a cambiare! Io ci ho ripensato! No, guarda! No! Ti porta l'acqua alta! All'acqua alta! Il povero Michele, il personaggio, diciamo, l'alter ego di Nanni Moretti, quando anche da piccolo in Palombella Rossa era già un rompipalle. 349-238-6666. Questo pezzo introduce la mail che voglio leggervi, che ha scritto Paola e che è campione del mondo di fobie. L'ha mandata a Voi siete qui, @radio24.it. Lei, dicevo, è campione del mondo delle fobie, ma lei è stata, ed è quella che finalmente, forse la prima che arriva oggi, è stata capace di passarla, di sorpassarla, questa fobia, di romperla e di andare oltre. E lo ha fatto in un modo molto particolare. Un po' l'ha aiutata il suo fidanzato e un po' invece chiaramente c'è riuscita da sola. E comunque la filosofia è sempre quella: se hai una paura, buttatici dentro. Ho sempre avuto la fobia dell'acqua alta. È una fobia stupida e anche piuttosto comune, lo so. Per me però è sempre stata molto invalidante, anche solo per il fatto che amo il mare. E l'acqua in sé non mi spaventa, a spaventarmi è la profondità. Vale anche per luoghi asciutti ma profondi, cupi, tipo un vecchio pozzo, mentre non mi fa paura l'altitudine di per sé, ad esempio. È una sorta di vertigine da profondità. Non so da dove arrivi. Mia mamma dice che da bambina, una volta, ho rischiato di affogare a pochi metri dalla spiaggia. Io non lo ricordo, ma Boh, forse è dovuto a quello. Questa fobia mi ha sempre costretta a rimanere a riva o al massimo fin dove si toccava. Poi, quando ho conosciuto il mio fidanzato, che è un amante del mare e della barca, ho deciso che non potevo impedirmi di passare del tempo con lui a fare una cosa che da molti è considerata splendida, come navigare su una barca senza motore. Quindi, la prima cosa che ho fatto, l'estate di un paio di anni fa, è stata noleggiare un pattino sulla spiaggia di Rapallo, dove vado sempre sin da piccola, e spingermi da sola oltre la linea della spiaggia, dove l'acqua era meno bassa. Quello che è accaduto è stato che io ho iniziato a urlare talmente forte che il bagnino è dovuto venirmi a prendere col suo pattino e mi ha rimorchiato a terra. Poi ho provato a nuotare aggrappata al lettino gonfiabile, ma per poco affogo dalla paura. Il mio compagno allora ha optato per una terapia d'urto. Ci siamo iscritti entrambi a un corso di sub. Le prime lezioni in piscina tutte filato liscio, forse perché l'acqua è chiara e il fondo non è lontano. Poi, nel gennaio dello scorso anno, c'è stata la prima immersione in acque libere. Ho pianto tutte le mie lacrime appena salita sul barcone. Poi, quando siamo arrivati sul posto dove la profondità era di circa 15 metri, il mio ragazzo mi ha guardato e mi ha detto: «Non guardare il fondo, guarda solo l'acqua intorno a te». Mi sono buttata e sono scesa fino a 13 metri. Poi sono risalita. Quando sono riemersa mi sentivo un'altra, anzi no, mi sentivo me stessa, solo più forte. La scorsa estate abbiamo fatto una settimana in barca a vela ed è stato bellissimo. Ma ti confesso, e lo faccio solo qui in questa lettera, che ancora oggi, se nuoto in superficie, la paura mi torna, sempre. Allora in quei casi non faccio altro che immergermi e nuotare sott'acqua, fino a che il cuore torna a battere regolare. On Jubilee Street there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Sono innumerevoli le paure degli ascoltatori di Voi Siete Qui. Vabbè, paura di parlare in pubblico, vertigine, paura delle cavallette, paura dei rettili, terrore dei granchi, paura della polizia addirittura. Ma i tre messaggi che se la battono per la vittoria sono: l'idea di leccare un cucchiaio di legno mi mette i brividi, Gabriele; mio marito, che fino all'anno scorso aveva la fobia che gli si stappasse l'ombelico, Sabrina; e Maurizio, che scrive: ho paura del coccodrillo sotto il letto, non dormo mai con le braccia fuori dal letto. Grazie a voi che ce l'avete raccontata, e grazie soprattutto a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni, e grazie a Mauro Pescio. La storia di oggi era la storia di Luisa, e anche lei è un punto rosso su una mappa. Buongiorno, mi chiamo Rodolfo e vengo da Segrate. La storia di domani è la mia e parla di una ragazza che ha imparato l'italiano cantando. Questa è la mia storia e io sono qui. Ci sono molti modi per ascoltare Voi Siete Qui. Uno è in diretta ed è quello che state facendo in questo momento. Ma se ve lo siete persi o se proprio non potete ascoltarlo, non disperate, ci sono i podcast. Ringraziamo Franco. 349-238-6666. Adesso la borsa e poi voi... Non c'è la borsa oggi? Come no? Ma c'è sempre, non c'è oggi? Vabbè, pubblicità. Se invece queste cose vi hanno fatto schifo, potete sentire cose come queste. Ogni volta che ci toccava andare alla lavagna perché eravamo interrogati, era veramente un bruttissimo momento. Poi c'era una paura terribile, terribile. E lei aveva messo giù un decalogo, per cui quando entrava lei noi dovevamo essere già tutti seduti, col quaderno aperto, il libro aperto, non ci doveva essere una mosca che volasse, e così era. Perché sì, è vero che ogni storia è la nostra storia, ma scaricandocela in podcast la possediamo per sempre.